già trasmette dalla cimenteria che qua arriva a fondo scala, voi già non lo sentite più, non lo sentite più, o per meglio dire, loro non vi sentono a voi, capito? Perché è una zona molto, ma molto, molto, molto bassa, bassa e coperta da montagne. Capito? Invece io supero completamente le gallerie e quindi vado direttamente ad aprirmi già sulla piana di Codrongiano, cioè lì sulla, su quella zona lì, capito? Già è diverso, mentre Olbia è molto più aperta, molto più aperta, è più facile arrivarci secondo le zone, capito? Già comunque va bene lo stesso. Ok, Riccardo, riprendi. Ok, riprendo. Comunque tu, signore Porto Torres, quando ti ho salutato tu non l'hai contraccambiato. Scusa Riccardi, scusami, no, non me ne sono accorto. Ciao Riccardi, un amico mio, Super Togo, scusa, non ho fatto apposta. Ah, cioè, tu immaginati Pitbull che ti debba riprendere un ragazzo di 15 anni, sì, proprio messo male. Io sì, io ho sempre messo male, sempre. Pitbull, sì. A non salutare manco che ti saluta, era impegnato ascoltando Ristano, e invece hai visto, ti sei proprio lasciato andare, vai giù. Riccardo, il ragazzo è sveglio. Precisamente quanti anni hai Riccardo? 13, caspita, figuriamoci. 13 anni, te ne immagini qua. Adesso piano piano diventa un grande CB e magari se ha voglia di studiare diventa anche radioamatore. E va bene, se le dura questa passione, fa benissimo a rimanere in frequenza, così si diverte. Tanto più che lui abitando lì fuori dalla centro della città, non penso che abbia molte possibilità di giocare con ragazzi della sua stessa età lì dove abita, perché si sa in campagna la vita è sempre quella che è a livello di conoscenze, di ragazzi eccetera. Io penso che sia così qua. Sì, capo. No, io ho conosciuto Riccardo. Conoscevo già il padre quando era in servizio al comando dei vigili, siamo rivisti dopo un po' col padre, ho conosciuto anche a Riccardino, è un ragazzo molto sveglio, molto attento e soprattutto ha un'educazione da vendere, e questo è molto importante. Adesso piano piano, appena riesco ad avere il tuo numero, ti mando un po' di foto di radio. Ti faccio così capire la differenza tra una radio HF e una radio vintage di quelle dimensioni, o un baracchino diverso da quello. Così ti mando anche la foto del DAT. Va bene. Avanti, già riprendi. Vai, finito, buona portata a tutti, va. Guarda la chiamata. Ma te la portante a tutti, adesso non fa più di più, così in zen. E la Massimiliano. Ma tu, ti arrivi, tu? Ciao Massimiliano. Oh, va, buona portante a tutti, non fa vedere di più, vai. Fai bene. Chi le ha portate, a quel Giulio e a quel Claudio, l'ha portata a tutte e due, metti, così non parlano più, con Muro li facciamo parlare. Per carità, grazie, non arrivi da noi, che cazzo va a Susso, fammi da... Riccardo, l'ho mandata la richiesta, buonasera. Mandami il numero di Riccardino, se ce l'hai, infatti se entravi 5 minuti fa stavo parlando con Oristano. Cosa che tu arrivi solo a Sorso e fai il forte con Franco di Sorso e boh, però mi... E non si la futti, che tu mi fa bene l'esame, non futta l'esame. Vabbè, dai, non posso venire qua pure con te, come? Ma chi? Chi, tu? Sì. E un caro vero forse, con Vannino, con Giulio, con Massimiliano, vai e boh. Perché tu non arrivi a Sorso? Ma a me di parlare con Sorso, arrivare a Sorso non mi interessa, a me piace arrivare 5-9 Oristano, cosa che voi manco intenditi. Ma io non si nafuti di farvi dare un Oristano, tu sei bravo, capito? Sei bravo e parli, bravo, fateli l'applauso. Oh, Claudio. Ma cosa c'è entrato a fa? A rompere le balle o a far questo? Per te, ma anche dalla Cina, Australia, Nord America, Canada, anche Alaska, da tutte le parti del mondo, ok? Sono proprio di militarista, ma non ce ne frega niente arrivare a Oristano. Ma con me me la puttare via Sosso, ma è compreso. No, me ne affutti nuda. La Sardegna è divisa in quattro parti, tre sono le mie e una è la vostra, che vi piaccia o no. Qua, qua, qua. Vai, piscia un gaimone, vai, o piscia e coccati. Vai, vai. Oh, ciao a tutti, QRT, parlate con Sosso, vai, che a me non mi interessa, ciao. Se non è attivo, a me. Zero, zero, yes a zero, yes a zero, ma zero però. E io gioco yes a zero di FB e me ne vanto, tu sei yes a zero, zero però, spaccato zero. Io non so cosa di amatore come te sei tu, capito? Bello bello. Cazzo, in due secondi la si è fatta in cazzacca. A te l'immagina, yes a zero, là là. Sì, sì, yeah. Buonasera a tutti, comunque, tutta la ruota. Scusate se mi sono intromesso, ma cazzo, questa era da dire, dai. Mandi voi andare, io. Ciao, Massimiliano. Andiamo via Pasqua, le gas arriviamo da chi via allo stadio dei Pini, e buh. Questa si chiama invasione di canale. Gali, la massa di Nevaia. Ecco. Che è avanti? Avanti, stavo cercando il 610, fai avanti da questa. Chi sei? Non abbiamo capito. Allungati l'antenna, fai avanti. L'antenna mia è abbastanza lunga, è la tua radio che passa. La mia radio è adesso a cambio, così ascoltiamo le cassette. Attento, 610. Magari. 610, 610, attento. 610, dai. Ma chi è questo qui? Mi vedi, 610, a te che 610. Stava cazzando, visto che avanti, avanti, intenda, intenda, guardi il camper, come me. Io però non capisco il nesso del discorso, c'era un questione, stavamo facendo due chiacchiere, se d'entrata avete fatto un aburotto, chi non ve ne aveva a dirlo. Va bene, complimenti. Ciao a tutti. Vabbè, la... togliamo il disturbo allora, la... togliamo il disturbo, ciao. Ah, cari dai, cazzo, ma mi giunta. Sempre Massimiliano. Beh, basta, Mercanti e Servi, la stessa vita, con i denari. Tra le dita, mi sa che prendeva, mi. Vero. Luca, io qua ce la sentire tu. E poi blocco il canale. Aspettate che ci vuole, sta chiamando. Avanti, New York. Sì, sì. Ciao, ciao. Porto Torres qua. Aspetta, se non penso che ti sentano gli altri. Le lacrime mi avete fatto scendere. Vivo, pirata. Eugenio, sei da bravo. Non vedere che anche dormi. No, tutto è una caina naturalmente, dai, ero l'ascolto. sì, non arrivava qua, C'era segnale zero, radio zero, si capiva che c'era un segnale, ma no. No, non è possibile che arrivi qua. C'è un limite fisico. Ciao a tutti. Ciao Marco. No, qua si sentiva bisbigliare, ma non si capivano le parole. Perché figurati 120 km, oi, ma se eri troppo sai volgero io, e basso pure. Di quanto vuoi che sia. E tardamente a me mi ha sentito. Gianni, registrato il break. Gianni, sì, quando sono a Ubia io che vado a prendere mia figlia li sento anch'io lì. Vabbè, quando sei in chi vado, ma dai non glielo ve la fa. Non lo gioco, qualche volta bisogna intendere, non vi gioco mai, e c'è paghi su. Luca, scusate, ti sposti un secondino al 20? Sì, vai, vai. Attenzione, Marco. Gianfranco? Cavaliere. Senti, Gianni, mi raccordo solo, mi raccordo, Marco, una cortesia, canale 1, grazie. Eia. Oh scusa, c'è un blocco piccolino, non sto scherzando. Ha detto scusate, avanti se mi senti. C'era un blocco piccolino, stava chiamando, non sto scherzando adesso. E noi abbiamo lasciato il bianco, ma non ho sentito nessuno. Beh, tutti fuggiti mi dicevi, aiuto, Claudio, ripri. Claudio. Alfa 21, avanti. Vabbè, ma no, non sarebbe più qua. Insomma, voi andate usi senza salutare in caduta. scappati, sono Giulio, ci sì. Tutti scappati, io sono sempre qui. Ti ho chiamato e non hai risposto. Alfa 21, fai la bravo. Ci sono. Io per carità che. Con l'interpotiferio su canale 10 mi sposto. Sono andato a mangiare Maurizio davanti ai garage. Comunque io più o meno tutte le volte sono tipo 24 su 24. Non esagerare, là. Più o meno sì, ma non proprio là. Ma non ho capito, ora sono paragambe. Esatto, sì. Ma roba originale o roba fatta dai concorrenti? Originale, insomma. Cioè esistono come ricambio di quella moto lì o sono fatti da delle ditte esterne? No, l'ho preso da Antidevision Manto qua. Ah, ok, ma qua sai perché non li vendono? C'è un negozio dove è l'Alghero o quello Mille Raggi, chi li vende per serli devi? No, lui l'originale non lo poteva offrire. Ma tu se vuoi comprare un Harley Davidson dovevi andare in Sardegna? A Cagliari, ce ne sono due, Rusty Garage e coso, e anche Davidson Cagliari. Ah, non lo sapevo, Alghero c'era un periodo, sbaglio, mi sto confondendo. No, no, quindi gli hanno ritirato la concessione, c'era l'americana. Ehi, chissà cosa combinando. Ok, chi c'è su questo canalito? C'era un po' di gente, adesso sono tutti dileguati, siamo rimasti io, Riccardino e... Chi c'è Riccardo oltre a te e Eugenio? Ci sono. Sì, ma poi chi c'è? Ah, oltre a me, scusa, non avevo capito. È scoppiato il putiferio, me ne sono scappato un attimo perché tanto mi rilanciavano e non ho capito chi se n'è andato e chi non se n'è andato. Un putiferio, perché bisticciati adesso? No, stavano parlando così tra loro stavano parlando tra loro e così non mi rilanciavano e così mi sono scappato un attimo. Hai fatto bene, dai. Vai, che tu e Luigi che stai parlando. Non mi sovramodulare a cosa, a Riccardino. Non ce la faccio a sovramodulare, siete troppo vicini. Non lo so. No, ma adesso già si fa. Quando ti arriva Riccardo a te e Luigi? A 9 arrivo. Ah, che buono, no? È un bel segnale. Considera che lui poi c'ha una radiolina e non è potente, più non ha microfono amplificato, per cui è tanto, no? Sì, sì, ma infatti ha migliorato alla grande. Arrivava a 3 prima. Ok. No, qua sta arrivando 9 più 20 spaccato, poi c'ha i picchi positivi, c'ha, allora più forte di lui di quelli normali, parliamo, senza amplificatore e niente, è Luca, anche se Luca magari qualche vattino lo tira con la radio, a parte quelli che c'ho vicino, tipo Claudio, Pomponio, Marco, eccetera, lui è il più forte di tutti dopo Luca. Vabbè, comunque l'ho controllato, sto uscendo con 5 watt. Non lo so, poi lo strumento, tu non hai qualcosa dallo strumento, sempre un po' di tollerante. Ci avrai effettivi 4 watt, poi c'è la perdita un po' dell'antenna e coso, all'antenna le arriveranno 3 watt e mezzo. Chi è avanti? Comunque sto uscendo bene. Alla grande, chi è avanti? Ma non c'eri mai venuto da me, Ugetto? No, vabbè, assolutamente, sono sempre andato da quando ci lavorava il mio amico, dall'officina a fianco, quella delle gomme. Ma c'eri passato dove c'era l'officina mia, quella strada la conosci? Sì, la strada la conoscevo, a Puglia. E chi c'era l'amico tuo delle gomme? Tore. Di nome? Salvatore. Salvatore. Ma lì c'era uno che si chiamava Salvatore e lavorava lì? Sì, guarda, aveva lo shadow, aveva la moto. Ah, ho capito, sì, diciamo un piccoletto era così. No, già venga, ma che fine ha fatto quel ragazzo? Non lo so, sta lavorando con un'assicurazione, credo. Ma non era di Sassari, o sbaglio? Sì, Sassari. Vabbè, abita lì punti, mi sa tanto. Non l'ho più visto, tanto, no, era in gamba quel ragazzo, dai. Ma lo dico, vabbè, tutti quelli che ci sono di lì sono tutti in gamba, sono tutti amici, ci tronchiamo il collo quando gli serve qualcosa a loro e viceversa quando ci serve roba a noi ci scambiamo i favori. Tranne uno, questo di Bigliarla in quel posto, meno male che se n'è andato, quello lì era un'opportunità, un lecchino, mamma mia, quello non legava con nessuno, neanche loro lo potevano vedere. Addirittura. Ascolta, ma lavori le levo le sacche? O no? Te la porto con le sacche, poi ti arrangi tu. Ma perché in pelle sono le sacche? No, sono quelle rigide, ma hanno due viti, quelle con la maniglia, giri e si staccano. Vedi tu, se fai fretta togli le mani per non sporcarsi, non lo so. Se devo lavorare sul telaio, sul coso, sul palafango, magari è meglio togli, le dai, così te le tieni direttamente tu. Va bene. Ma oggi la notte fai oggi? Oggi faccio la notte, sì. Vabbè, sto lavorando, io dovrei essere, cioè, sono di guardia. Però siamo a casa, siamo qua in attesa, un po' a caffè acceso. Però ci hanno già detto che entra verso le 11, capito? Ma nave merci o passeggi? Nave merci. Ma il VHF voi utilizzate frequenze dedicate o quelle che vi esce? Lo usiamo? la frequenza del vostro VHF è una frequenza specifica vostra o banda marina? Cosa utilizzate? Allora, la banda marina usiamo il 12 per l'ascolto, al limite possiamo chiamare ai piloti per sapere gli orari e poi sul 73 c'è il 73 per le agenzie, quando ci dicono cancella il numero 19, targa, bla, aggiungi a posto 19, aggiungi un niente con la targa, bla bla, capito? Una domanda, ma voi col pilota potete parlare? Sì, volendo sì. Col pilota nel senso, quando sta arrivando la nave, cioè anche prima di arrivare al porto potete parlare? Ah vabbè, durante la manovra no, durante la manovra cosa lo farà fare? La nave lì è in porto, cosa le può chiedere? No, non mi sono spiegato. Allora, vedi, la nave è alla Zinara, non si vede ancora. Dille, oh, appunto Z, glielo puoi dire. Alla nave? Alla nave, per sapere, per dire, quando c'è maltempo, che la nave non sta ancora che è in ritardo, dice, oh, tra quanto arrivi, glielo potete dire, vi capi? No. Evitiamo queste cose. No, evitiamo queste cose per... ci metti in mezzo, poi c'è il pilota, c'è il capitano lì, c'è un casino, quindi evitiamo. No, chiama direttamente al pilota. Al pilota, quello della pilotina stai parlando, quello che poi riesce a fare la manovra. Esatto. Ah ok, ma lui è collegato in diretta con la nave, quello sa tutte le posizioni e tutto quando deve arrivare. Eh beh certo. Io non ho già interessato il discorso. Ero con la barca mia, no, la barca, col gommone. Ero curioso, cacchio, di vedere tutta la manovra, lì sono andato proprio sotto la nave. Cazzo, ma se non mi avevi visto, io ho fatto la manovra aspettandola vicino che entrasse nel porto, dopo il colpo, boh, a sinistra a mezzo di bidi. Subito sono uscito, cacchio, dal resto. Ma sai quanto vi stai lontano quando c'è una nave così in manovra? Già lo so, ma io ero curioso, l'ho seguito a fianco, fiancheggiato prima di entrare nel porto, lì un po' al lago, a un miglio, un chilometro, dai, o meno di un miglio, e mi sono affiancato e l'ho seguito, poi ho aspettato che facesse, ci allargasse per entrare, dai, fare tutta la mano, ma io mi sono messo vicino, catta, alla buia, non ti mesci. Pericoloso anche così. Vabbè, non so, questi turni del cavolo si sfasano tutta la giornata. Vai Riccardi, ho visto Riccardi, ho guardato bene la foto che mi hai mandato, non avevo notato che è molto in alto la direttiva, bella. Sì, è sul tetto, come hai visto, praticamente non è proprio dal tetto, il pallone inizia dal terreno. Ma scusa, perché non è vicino al coso, all'altra antenna? Sì, è vicino all'altra antenna, però è dietro i garage e c'è un palo che inizia da terra, si sta a terra con un bastone e poi sale su. E quanti metri è quel palo? 6 metri sempre. Oh, bella, diciamo con la direttiva devi stare un po' attento al vento, ma non ne avete tirati su questo? No. Non sai i contraccolpi che prende il coso, il motore di quella roba lì, perché ci vuole il cuscinetto di reggispinta che si grebba, a me me ne sono rotti due di quelli lì, ti posso dire non era neanche in alto, poi ci cade umidità qua dentro, sono una cagattina, ci vogliono quelli col coso, con il cuscinetto reggispinta in modo che scarica la forza. Non ci abbiamo pensato infatti. Perché quando c'è il vento con l'antenna smatte, non è come una manta va verticale che oscilla, ma quella ti dà certi contraccolpi, tum, tum, tum, sai come si fanno gli ingranaggi. Ok, cosa volevo dire? Avanti tutto il genere. E oggi quindi non ha lavorato ancora? No, oggi sono in seconda di guardia. Siamo avviati in questa nave qua e niente, dobbiamo stare in attesa. Chiamiamo la guardia, chiamiamo la repubblicana, come vuoi. E siamo qua in attesa di sapere notizie. Allora, diciamo per certi versi già un bel lavoro, magari ripetitivo, però è un lavoro diciamo così, ce ne sono molto peggio. Sì, abbiamo un sacco di tempo libero, per carità. Lo stipendio è quello che è, va benissimo, alla grande, non c'è problema. No, non mi sto lamentando, per carità. Perché tutto poi noi in ufficio abbiamo una stanza solamente di curriculum. È un posto molto ambito a Porto Torres, la compagnia portuale. e io sono fortunato. E comunque niente, dai. E quando sono questi giorni qua che ti sposa un po' tutto. Ah, dimmi una cosa, ma tu come mai sei entrato, tuo babbo, qualcuno a concorso, cos'hai fatto? A sua volta io ho fatto il concorso, nel 91. Perché è un lavoro molto specialistico quello, no? Il rubone va a tutti. Diciamo un po' più pesante quelli che pigliano la cima quando vanno a fare gli attracchi, quelli che quando c'è il mare brutto, onde, schizzi di acqua d'inverno, quelli si bagnano. Quelli proprio non fanno niente, quelli mettono la cima e basta. Però quando è brutto tempo d'inverno ci sono quelle ondate di schizzi dell'acqua gelida, mamma mia. Va, lascia stare, va. Chi prende acqua, chi prende schizzi siamo noi, non loro. Ma che schizzi prendi? Sul trattore quando scendo a sollevare i piedi o abbassarli, le onde lo sai quando mi travolgo. Ma non sei chiuso dentro? Sono chiuso dentro, ma me ne scendo per staccarmi l'aria, no? Staccarmi l'aria ai piedi. Ah, quindi ti bagni anche tu? Certo. Eia, l'ultima domanda, ma quel VHF lì, com'è portata? Lontano riesci ad arrivare? Come portata, come ricezione già ne ha, perché il bordo, i piloti hanno le antenne alte, quindi qua col portatile riesco a sentire tutto. Magari non riescono a sentirmi loro, capito? Loro ti comunicano soltanto dicono guarda che sei pronto, fatti trovare pronto, oppure devi dire Roger, devi rispondere. No, danno l'orario e basta. A tutti gli interessati, a tutti gli interessati il postale che è la Tirrenia alle 8:30 al pilota. Ah così dai, quindi non c'è bisogno di confermare niente, ti arriva il segnale, il messaggio, tipo un sms, però te lo mandano via radio. Ok, vai Riccardi, che radio stai provando oggi Ricca? Adesso sto usando sempre il Colt, perché adesso devo usarlo allo Stalker, soprattutto a 2:20 che potrebbe avere dei danni e lo voglio portare a far riparare. No, questo va benissimo, guarda ti dico, di tutte le radio che c'è questa è la migliore, poi nessun disturbo né niente, quello, come si chiama, Coltiberri, bellissima radio, però ho visto che a 2:20 c'aveva qualche problemino per cui ti conveniva far andare a 12 volte, ma a quel punto metti questa che va più che bene, è bella radio, pulita, e dimmi un po' il microfono a che punto sei, cosa ti ha detto Fusa? Mi ha chiamato. Ti ha chiamato? No, negativo. E beh voi non lo chiamate, non ti ha detto quando arriva domani, dopo, non ti ha dato giorno? No, è perché dopo gli ha detto, faccia con calma a ordinarlo e così adesso ci mette ancora più tempo. Ma voi dovevate di cambiare, con calma chi da Mario se ne dimentica, dice quando ci sarà un altro ordine, ecco, tu chiamala lunedì, dice, novità ci sono, ma ha detto molto con delicatezza, novità ci sono al microfono, cosa si prevede? Così almeno ti dice domani, dopo, tra una settimana, ma che un attimo, con i corrieri viaggiano tutti i giorni, mattina e sera, a Puglia che a noi ci consegnano la merce, ordinata la mattina e la sera me la consegnano. Ok, vediamo un attimino di bianco se c'è qualcuno su canale 10, avanti chi vuole entrare, Luda, vai Eugenio, prenditela tutta quanta, il microfono naturalmente. No, però è importante quei pezzi, così iniziamo, facciamo, ma quella salatura già me la fai, sì? Certo, cazzo, la cosa più importante è quella. Andare, sono contento, sono contentissimo. Ti arrivano le pezze, cioè sono già arrivati, me li sono anche posizionati, bella, veramente bella. Così facciamo il tutto e finalmente mi riposto. Se il tempo non c'è, inizio a usare solo la moto. Dimmi una cosa, sono arrivati già col primer o neri? No, sono neri luci, neri luci. Neri lucidi verniciati di un colore di una moto o neri perché la plastica è nera? No, verniciati neri. Oh, io che? Dimmi Ricca. Adesso che abbiamo ordinato il mini eolico, prima c'era sempre vento, adesso non c'è un filo di vento. A me devono venire a piazzarmi i pannelli fotovoltaici, quelli con l'accumulatore. Mi stavo dicendo, non bene. Volevo capire, ma sono verniciati di un altro colore di un'altra moto o sono neri da verniciare col primer? No, sono neri standard, diciamo. Sono neanche lucidi, sono ombrosi, da. E quindi sono col prime, dai, no, non so, perché molte volte arrivano già in tinta, magari lo danno uno giallo, uno verde, diciamo di come ce l'avevano, e molte volte capita così su queste moto. Oppure te lo danno dello stesso colore della moto, però poi va a confrontarlo sulla moto ed è una Suguri, perché magari è stato verniciato da un'altra parte, con altre basi, eccetera. Cioè la Yamaha fa così, te li dà già verniciati, poi li metti sulla moto ed è un altro colore. Oh. No, no, questi sono verniciati, avanti, chi era? Ehi, hey, buonasera, dai, sono rientrato, buonasera a tutti. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao Roberto, ciao a tutti quanti, dai, ero a fare un giretto nei canali, poi ho sentito Franco, forse era lui, di Splatter, e allora sono venuto qua. Franco chi? Franco Ferroviere. Qua? No, qua non c'è. E allora Vittorio? Una settimana. Cosa mi hai detto? Oggi? Tempi di consegna, una settimana, no? Di più, di meno. Diciamo come lavoro, se tutto a posto si fa in qualche giorno, due o tre giorni si fa, però sei presente, io il lavoro me lo organizzo settimanalmente e te lo devo incastrare quello lì, dai, vediamo un pochettino. Ok, ok, ma lunedì ti posso portare tutto però, poi ci arrangi tu. Certamente, se riesci a portarlo così ce l'ho già pronto. Ok, io ti porto tutto, moto, pezzi e tutte cose. Cosa volevo dire? Gianni mi ha detto c'era Franco, ma Franco Binari. Mi è sembrato lui, non vorrei sbagliarmi, magari no. Può essere Riccardino, Riccardo c'era, siamo io, Riccardo, Eugenio e tu. Ciao. Ciao Riccardino di nuovo, dai. Come mi ascolti con questa radio, cambio? Ti sento 9:10, 9:15, compiti positivi, una radio di 5, cambio! Fa troppo ridere Riccardino, è troppo simpatico. E poi sta entrando nella fisionomia dei cibicelli proprio camionisti, dai. Sì, un giorno li facciamo sentire com'è con i camionisti. Io ho sentito un video di questo radioamatore, era proprio un radioamatore, però era un XCB ed era con una Lan 48, non so, un po' colto, non so se era il baracchino. Su YouTube l'ho visto, perché faccio parte di un gruppo di questi su Facebook, di questi CB, ma tu faccia troppo. Poi è un simpatico, questo è un ciccione grosso, c'ha la faccia tipo Bombolo, un tipo del genere. Bombolo, parliamo Bombolo il coso, l'attore, non Bombolo Antonio. Tu devi vedere questo scherza, poi c'ha il sorriso di quelle facce simpatiche, sempre sorridenti, e tu si mette a fare tutte le voci, che ha troppo ridere. L'ho visto anch'io. Bianco per me. Magliettina bianca. Ah, ma mi piace Riccardino che ha imparato subito le parole positivo, K di Roger, K di positivo, tutte le parole entrato nelle cose. Io diciamo molte parole che voi usate, tipo K di Roger, K di positivo, io non le uso, uso magari un linguaggio più normale, non proprio da camionisti, quelli che fanno che ti fanno l'eco dopo che parlo. Vabbè, quelli lì sono cose tipo propaganda invece che propagazione, io lo uso i camionisti proprio, capito? È il linguaggio proprio dei camionisti quello. Questa canaletta, questo canile, tutte queste parole di coso, che ci sono dei camionisti proprio quelli tusti, dai. Ok, vai oggi. Se ma ce ne conosco io, lui. Ma normalmente sono tutti dalla zona della bassa Italia, diciamo dalla campagna in giù, iniziano con questi ecco triplo modulatore, quadruplo modulatore, ecco che sta mezz'ora parlando, che dura 10 minuti la parola dopo che ha chiuso. C'è la poetaio della bassa Italia, grandi modulatori, cambio! Però è detto sui canali 45 così, 55 cos'è, il 27.555, che cos'è, che canale è già? 52. Beh, Giulio, e beh, giù. E lì è tutto, non se ne comprende nulla, uno sopra l'altro, parlano a chi fa più rumore. Sì, ciao, vabbè, ciao, Eugenio, vabbè, poco fa già eravamo insieme, e ruota, e poi c'è stato Riccardo, ciao Riccardo di nuovo e qualche altro, forse Gianni, non lo so, saluto a tutti, comunque non mi sono allontanato, stavo guardando la televisione e basta, niente di più. Sì, perché quella è la frequenza monitor nazionale o vabbè, 27.255, è la frequenza monitor, praticamente 12 canali sopra 40, canale 52. No, ma quello non sarebbe un problema, cioè questi che hanno queste apparecchiature così, vengano anche, per carità, però se se ne vanno sui canali preposti proprio per fare questo genere di attività, va benissimo, che problemi ci sono? Io non ho niente da dire, la verità. Il guaio è se lo utilizzano quando facciamo un normalissimo QSO locale, è quello che potrebbe dare fastidio, ma poi tutto sommato non è che mi permetto assolutamente né io né tu di dire a qualcuno fai per forza così, per carità, ci mancherebbe. Vabbè, riprendilo. C'è anche Eugenio da Porto Torres, il ritardino che si è allontanato un attimino, vediamo se è ripreso, è doppio rumbo. Avanti ritardo. Comunque Giulio, c'è anche 27555 in USB e di lì va a memoria laterale quando vogliamo fare DX, è un canale, chiamiamolo internazionale, perché molte volte si fanno collegamenti fuori dall'Italia, anche se ultimamente non ho più sentito nessuno, qualche volta si andava anche lì. Sono 21. Come? Poi 12, mi pare 12. Non lo so, io non corrispondo, perché canali io li considero 40 e poi c'è la seconda serie dei 40, la terza serie, qua qualcuno lo chiama, Giulio lo chiama 52, quello il 27155 52, Giulio, così confermi. Giulio, vai Eugenio. Ehi, sto mangiando uno yogurt, sto cenando praticamente. Comunque Robè, complimenti per l'officina, eh. È la prima carrozzeria che vedo ordinata. Veramente ordinata, no? Perché ordinata. Grazie, bravo. Tu hai visto un pezzo di officina, se vedi tutto il resto. Ce n'è ancora dietro. E quello è solo il reparto carrozzeria, poi c'è tutto il reparto verniciato, cioè abbiamo 2000 metri, no? Ah, non ho capito. Non ho visto il forno, ho detto magari è il forno è dove è entrato quel ragazzo. No, tu hai visto solo il reparto lattoneria, dove prendiamo l'accettazione dalle macchine, poi c'è tutto il resto. Ah, ok. Andà bene. Ok, anzi oggi era un po' disordinata, infatti abbiamo fatto pulizia, Danilo mi ha detto non l'ho mai vista l'officina così, se la per essere babbo, infatti ne avevamo gravato un po' di imbarazzi, tutto riordinato perché era un po' disordinata oggi. Ma lì tu sei il titolare? Io e mio fratello, sì. Che è quel ragazzo che stava parlando con me, tuo fratello, no? Sì, quello più basso di me, Danilo, che ti ha fatto vedere quelle moto, quello lì, lui è l'operatore, diciamo, quello, l'avierista che fa tutto il lavoro. Ah, e quello è tuo fratello, ho capito. Quindi conoscevi anche quell'insegnante dell'Istituto d'Arte, quello che c'ha con Harley Davidson? Sì, no, siamo usciti anche assieme, accidenti, con Pidas, con Claudio, che ha un'altra Harley, che stiamo sempre assieme. Sono passati tanti qua di Mini, abbiamo un'altra di Erli e vabbè la sta facendo a tempo perso, è l'amico di mio nipote, quello che c'ha con la macchina, che già lo conosce anche si chiama Riccardino, però un Erli piccolino ne sta facendo il telaio. Tu vuoi vedere i numeri, cavolo, non avevo mai visto i numeri dell'Erli, almeno di queste più recenti, ma appena si è rigraffati, leggeri, l'ultimo numero, gli ultimi numeri deve essere, li incidono a mano, c'è scritto HD, Erli HD, adesso mi ricordo, c'è il numero proprio, diciamo, funzionato bene, serigrafato inciso, e poi l'ultimo pezzettino del numero è proprio, si vede, fatto a mano. Sì, so così. Sono molto proprio artigianali, anche se adesso magari ne stanno facendo qualche centinaio di migliaia all'anno, però si vede che sono molto ancora con tecnologie di vecchio stampo, dai. Ok, riprenditi il mic e doppio rumbo, dai. Nelle debita la Ferrari delle moto, per poco vi va. Diciamo deve essere di quella mentalità lì, diciamo ti piacere quel genere lì, è come quando uno dice preferisce la Porsche alla Ferrari o il BMW alla Mercedes, deve essere appassionato di quel genere di moto. A livello di robustezza, tanto di cappello, niente da dire, sono moto che non girano molto, per cui sono robusti, i motori sono indistruttibili, però io sono fissato per altri generi di moto, a me piace la moto silenziosa, un orologio tipo il BMW, la moto ideale mia è il BMW, che è per dire, è un orologio, nemmeno si sente, non vede una trasurazione di niente, il motore gira pulito e anche come prestazioni non è. Adesso ci sono anche i nuovi BMW che spingono pure. Il mio genere è l'R1, avanti break. Maria, ciao, ben sentito Claudio, c'è anche, come si chiama, Eugenio da Porto Torres, Riccardino si era allontanato, non so se è rientrato, e poi c'è Giulio, rilanciamo un attimino a Giulio, se è rientrato perché l'ho rilanciato e non si è sentito, avanti Giulio per Claudio, nulla, vai Riccardo. Ok, sono rientrato anch'io, ciao Claudio, ben sentito, sono tornato adesso, mia madre è rientrata al lavoro, comunque, ciao Claudio, non so se è stato qualcuno. No, c'era Giulio un attimino, però non abbiamo. Vai Eugenio per Claudio. Ciao Claudio, se mi senti, buonasera, salutami tutto Muros. Ok, anch'io ho detto, mi aspetto che vado da Fileto qui fino quasi a Cagliari, faccio che non ho detto io. Non so se ti ho rilanciato a Gianni, Gianni ti ho rilanciato per, non mi ricordo, per Muros. No, negativo, ciao, chiedo a Ruginito, ben sentito, cordialità anche a te. Bisogna fare sempre molto, sempre molto, e ci si tiene in forma, K. E anche a Babbo devi dire di fare un po' di bicicletta, che gli fa bene. Anch'io la dovrei fare adesso, per il movimento della gamba, mi servirebbe una bicicletta, fare un po' di movimento. Però poi non so dove ficcarmela, capito? Il brutto è quello, ti c'è il posto, ma io non so dove metterla poi. Claudio, sono Eugenio da Porto Torres, ma esci con la bicicletta alla strada? Ma se c'era qualcuno sotto che parlava, avanti chi vuole entrare? No, ero io che stavo chiedendo a Claudio se esce con la bicicletta alla strada. Se esci con la bicicletta alla strada. Scusate, ciao, vabbè, dai, io ascolto il notiziario e vi saluto. Ciao Roberto, ciao Eugenio, Gianni e quanti ce ne sono in frequenza. Perlomeno ho sentito a voi, dai. Alle prossime, io ascolto il telegiornale, adesso vediamo un po' cosa è successo col fatto del virus. Riprendi pure, vabbè, io chiudo, dai, ciao a tutti. A proposito, giù, prima di chiudere, ti voglio chiedere una cosa. Se ti capita di passare dalle mie zone, ti devo far vedere una cosa di una macchina d'epoca. Questa c'è un rivestimento, mi ricordo che l'avevo visto da te, che c'avevi quei rotoli tipo radica, cosa del genere. Siccome dobbiamo fare le cicce, mi darai dei consigli, se ti capita, di come fare e dove trovare il materiale soprattutto. Ok, ti lascio il mic, cioè ti faccio rispondere, poi ti saluto e ti auguro una buon proseguo di serata. Avanti Giulio. Sì, ok, sì, va bene, vabbè. C'ero alcuni giorni fa, lì sono andato ho preso il nuovo dell'assicurazione, che io sono lì praticamente di fronte alla GBC, all'angolo dove c'è il semaforo, alla Cattolica. Sono andato lì, se me lo dicevi prima non ci sarebbero stati problemi. Va bene, vedo di avvicinarmi non appena è possibile vabbè. Alle prossime, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao Gianni, ciao Riccardo, Eugenio, poi chi c'era? Boh, mi sembra di non aver sentito nessun altro. Allora, riprendi ancora, vabbè, alla prossima, ciao. Sì, ciao, buon tutto. Vai, facciamo riprendere prima il più lontano, a Claudio da Muros. Avanti Muros per cosa? Per Giulio. Dai, ciao Giulio, buon QRT e buon tutto, dai, buona continuazione di serata. Grazie per il questo, ciao. Avanti, Robby. Aspetta, c'è Eugenio prima, avanti Eugenio. Ciao Giulio, ci sentiamo. Sto dicendo a Claudio che anch'io esco con la bicicletta alla strada, facevo parte dei ciclisti turistali, dille se si riconosce. Adesso l'ho cambiato da poco, una Wheelier, la Wheelier Tessina. E mi sono dovuto fermare io perché stavo dimagrendo troppo. E in palestra non avevo più la mia categoria, quindi ho dovuto ringraziare per poter continuare a fare quello che faccio. Volevo farle un'osservazione a riguardo della Wheelier Triestina. Vi racconto un aneddoto. Il mio babbo è il fondatore della squadra di calcio della Wheelier del 49, abbiamo festeggiato a giugno dell'anno scorso 70 anni. La storia della Wheelier nasce proprio con nome, prima c'era un altro nome, non lo diciamo per non pubblicizzare troppo, dopodiché quel nome non era tanto bellino, diciamo, non piaceva più tanto. Erano mio babbo insieme ad altri due amici, tra cui il cognato, ha detto come la chiamiamo questa società, non lo sappiamo. Cosa, insomma, è passato il camion, siccome era il periodo del ciclismo, dal dopo quello andava tantissimo, è passato il camion delle biciclette Villier. Chiamiamola Villier, che è un bel nome, l'hanno chiamata Villier, e i colori sociali della Villier sono giallo-rossi, proprio il colore della Villier triestina. Quando abbiamo fatto il 50° anniversario, che abbiamo fatto una festa grandissima, bella, sono venute migliaia di persone, e abbiamo mandato tutto il messaggio alla Villier, di cosa, proprio la produttrice delle cose, l'abbiamo mandato il libro, perché avevamo fatto anche il libro per festeggiare tutto questa storia qui, e ci hanno mandato due biciclette bellissime, campioni del mondo, biciclette che costano un sacco di soldi. E questa era l'aneddoto. Avanti oggi. Chi ce l'ha queste biciclette adesso? No, le abbiamo, il cazzo, poi giù mai prima di darcene, roba di assicurazione, dice mi raccomando, attenzione qua, là, una bicicletta di valore, altissimo valore, costa un sacco di soldi, sono biciclette in carbonio, oppure non è una bicicletta normale. Allora Viglia, viva l'Italia libera e repubblicana, non c'entra niente il fascismo, anzi era tutt'altro che contro il fascismo, perché era repubblicana, era contro la monarchia, infatti era una cosa di nascosto, lo dicevano. E poi non si sa se sia una leggenda o se sia balla, questo non si sa, o se sia verità, e voleva dire così, viva l'Italia libera e repubblicana. Allora non lo sapevo questo, io non lo sapevo, comunque anche la mia è tutta in carbonio, io l'ho pagata a 3.500 euro quella bicicletta io adesso. Ma per caso stasera avete bevuto? Un attimo, aspetta, facciamo riprendere un attimino a Riccardino che passerà il mic a Gianni doppio rumo, e poi devo dire una cosa riguardo le biciclette. Avanti Riccardino. No, ho detto, mi sono iniziato con me, voglio fare le biciclette. Comunque volevo dire che come Claudio, anche noi abbiamo delle Legnano come biciclette da corsa. Dico, no, le uso, non esiste neanche il modello. Riprendi Gianni. Tutti i ciclisti sono qua, tutti sportivi, Bobo, solo io sono fermo là. E io che okay, vabbè, io sto sempre in piedi, in movimento. Poi adesso vabbè, gli allenamenti sono finiti, perché in bicicletta ci sono andato con mia figlia quando siamo andati verso ottobre, novembre, forse prima di gennaio, che c'era una bella giornata, adesso siamo andati, però tragitti molto ma molto limitati, non c'ho allenamento, le gambe sono quelle che sono. E io ce ne avrei bisogno, con l'operazione che ho avuto, fare un po' di bicicletta mi farebbe bene. Allora Gianni, se vuoi un consiglio da, non dico da esperto, però uno che ha un po' di farinatura ce l'ha, io ti consiglio farti, prima di toccare la bicicletta, farti delle camminate nel bagnasciuga, senza forzare, proprio camminate con l'acqua di cose, in modo riattivi anche la circolazione, che l'acqua fredda fa bene per la circolazione, per cui tutti i capillari, i righi, i rori di sangue, in modo che ravvivi anche la circolazione, ti fa bene. Poi piano piano leggere camminate con scarpe comode, e poi piano piano la bicicletta, senza forzare, ma leggera leggera, senza fare salite o cose del genere. Io sto facendo camminate, con la scusa che porto il cane mi faccio delle grosse camminate e già si sta riattivando bene, perché se aspetto che vengano i fisioterapisti a casa che mi dovevano mandare dalla SL, posso stare anche fresco, avrei avuto la gamba di legno a quest'ora se non mi fossi dato da fare io. Diga, poi una cosa Eugenio, tu la bicicletta tua quanto l'hai pagata oggi? 2.500. E quindi l'hai pagata anche poco, perché le biciclette costano, ce ne sono anche da decine di migliaia di euro. C'è il gommista a fianco a noi, c'è una bicicletta da passeggio, ce l'ha fatta costruire su misura, proprio su misura dalla Germania, gli hanno fatto tutto, la sella costruita artigianalmente, l'ha pagata 9.000 euro, una bicicletta da passeggio, se tu la vedi dici, ma cosa va? Dico, lui ce l'ha fatta fare esattamente per l'altezza sua, le gambe sue, la sella, non so quanto ha pagato la sella, una cosa fuori dal mondo. Sì, lo so, anche la mia è su misura, io l'ho dovuto ordinare su misura la mia, capito? È tutto carbonio, poi dipende da come la allestisci una bicicletta. Sta tornando la moda delle biciclette, prima non si usavano così, adesso si stanno riusando le biciclette, si sta scoprendo la libertà. No, io ho una mountain bike che me l'hanno regalata quando ho fatto 50 anni, un po' di anni fa, ma la bicicletta da Dredi, se ci si fa sedere quadrato quella lì, non so se sia Botticchia o... non Botticchia, come si chiama? Girardengo. Io avevo la famosa Bianchi. Gava gava, ma ti parlo di quando ero ragazzo e ce l'avevo da corsa, avevo una Bianchi da corsa e me l'hanno rubata dall'ultimo piano, dal pianerottolo, l'avevo appoggiata lì perché stavo per uscire, me la portavo sì da sola per non toccarla a nessuno, che se invece me l'hanno invurata. Aspetta, forse ha parlato, tu e io già parlato. No, no. Allora stanno mettendo importante qualcuno. C'è un amico mio di Perfugaccio, questo è collezionista di biciclette, ne avrà qualche centinaio. Però gli manca la bicicletta che c'ha mio fratello. Mio fratello non so chi gliel'abbia regalata. C'ha una Bianchi piccolina da ragazzo, quelle piccole da corsa, proprio per fare le gare ai ragazzi diciamo di 10 anni così, con tutte le quelle cose che si mettevano dove c'è il manubrio, cos'era tipo cuoio avvolto del nastro, proprio originale col cambio, non so se era campagnolo o Bianchi, piccolina, azzurrina questa bicicletta, ma fa troppo ridere perché è proprio per ragazzini piccoli. Non so quanto gliela chiesta questo, dice vai, non so quali soldi, dai vendi, ma te ne do quelle che vuoi, ti scegli una bicicletta. Infatti no, no, no, ma la tengo io. Avanti oggi. Costano parecchio sto cavo di biciclette, però sono belle, la mia è tutta in carbonio, poi è grigia e nera opaca, è una bella bicicletta. Aspetta, c'è qualcuno che ha fatto black, avanti il black. Sono spagnoli loro. Vabbè, propaganda, no, stanno arrivando belle che forti, magari erano loro che hanno sovramodulato a Claudio Di Muro, su 9.10 il suo segnale, lo sentivo un po', ogni tanto un colpo importante, forse un po' più forte dai, di Claudio. C'è ancora Riccardino, vediamo un pochettino se ci dice che bici c'ha. Dico la verità, sono andata a vederlo, non ho capito, ha detto che non ho capito se il modello. Però comunque, vabbè, non è da corsa, però la mia venuta poi se l'ha usata per fare la gratella corsa. No, ma eccolo, ma tu le faccio pure magari, cioè. Cosa? La grazella era il tocco per i ragazzini con la sella lunga, con la spalliera dietro e il cambio in mezzo, non so se ve l'avete ricordate, chi è che te la ricorda? Io. Cava, cava, cava. Quella lì era la cross, che era quella da cross, la bici da cross. Si aveva il cambio come le marce, al centro, sì. Aveva gli ammortizzatori. Quella c'è Riccardo? L'ho usata. Si chiama teenager, esattamente. No, io bicicletta adesso non so se ne è rimasta qualcuno perché ne abbiamo buttato fuori, poi ce n'ho un paio elettriche di quelle belline, me l'avevo comprata io, che erano però le batterie scariche, a 3 ruote questa qua, c'ha 2 ruote piccoline dietro, una specie tipo monopattino, però stai seduto, e c'è il clacson, le frecce, le luci, l'avevo pagata anche poco, questa l'aveva vinta da un concorso, non so che cosa, e ce l'aveva ferma, nuova, mamma mia, e c'è la cosa bella che ha 3 ruote, c'ha 2 ruote dietro e una davanti, e freni a tamburo, cioè, e tu la rimane dritta da sola questa moto, diciamo moto bicicletta come si può dire, però è bellina, gli hanno messo le luci, le frecce, il clacson, e ho cambiato solo le batterie, non l'ho mai usata per strada, mi ho fatto qualche pezzettino così, però, e poi ne hanno regalato altre 2 a mio fratello di questi tipo monopattini a motore. Ah, ma no, ce n'è uno vicino a casa che cammina quello che si deve tenere in equilibrio, si mette le buste della spesa nelle mani, io dico che se quello perde l'equilibrio si ammazza, perché si prende le buste della spesa con le mani e si tiene in equilibrio così, dritto, senza avere le mani libere, capito? Ha le buste della spesa in mano e cammina così, è sempre sparato. Io lo avevo provato, però non credo che sia, anche se c'hanno un sistema di stabilizzazione tipo GPS, un coso regolato tramite GPS, però cacchio, male si sgrema in quel momento lì, non so cosa succede, cade a bocca a terra. Lo sai noi quando si usciva tutti assieme ad Alghero, che calava un po' il vento, non c'era vento per planare, con lui surf cosa facevamo? Avevamo tutti lo skateboard e avevamo fatto la modifica e mettevamo la pella del windsurf sopra lo skateboard. La capitaneria veniva e ci chiudeva il porto e vedevi 30-40 vele surfando sull'asfalto con lo skateboard, bellissimo. È bello, anche a Piazza dei Segni li ho visti quando c'era qualche giornata, domenica mattina, che c'era un po' di vento, le provavano. Ma come? Le ruote sotto c'è? Usi lo skateboard e li metti la vela. Lo skateboard. Noi facevamo un buco sulla prua dello skateboard, no? ci mettevamo il pianellabero con la vela, il boma, a posto della tavola Wilson e lo skateboard. Uguale identico, però sull'asfalto, camminava con le ruote, no, bastava un filo di vento, un leggero soffio di vento che ti faceva camminare un sacco. Ho capito. Oh, yeah. Tutte le ventidiche. Vabbè, comunque questo qua l'ho fermato un giorno, lo stavo guardando, lui ha guardato a me, come dire, deve vuol dirmi qualcosa, ho detto sì, le voglio chiedere una cosa se possibile, come fa a reggersi in equilibrio? Lui ha detto guarda, è facilissimo anche da guidare, basta che tu ti sporgi appena appena in avanti, vai in avanti, ti sporgi indietro, vai indietro, e ti metti dritto e si ferma, no, non c'è problema, ha detto, non ci vuole equilibrio. È una cosa a casa, già ci vuole l'equilibrio, perché se si muove questa cosa qua, uno deve avere anche l'equilibrio per reggersi, no? Ciao, un giroscopio si chiama quel sistema di cose, un controllo digitale, un computer c'è per fare tutto quel lavoro lì, non è uno scherzo, uno lo vede così, ma c'è una tecnologia allucinante. Il giroscopio ce l'ha anche l'elicottero, che usavo io, c'è il giroscopio. Però, cacchio, non si sa mai che cade a boccatera, tu sei talmente sicuro e poi magari in quel momento lì ti scatta la batteria, un virus, qualcuno con un telecomando, un disturbo, tu e cade a boccatera. O trovi un fosso, ti si punta, cazzo, mamma. A me sinceramente non piace, lo usano in certe città metropolitane, Tokyo, Pechino, poi città grosse, lo usa anche la polizia che va in giro, anziché camminare a piedi vanno in giro con questa storia. Vabbè, tu non la stai usando questa moto particolare che ti hanno dato? No, io l'ho comprata per il camper, l'ho pagata anche poco, oggi mai ho pagato più le batterie di coso, le batterie le ho pagate abbastanza, e la moto mi pare 100-150 euro mi sembra malata, la moto nuova, fiammante, mai usata, le batterie non tenevano niente, allora sono andata alla GBC, mi sembra che le ho pagate 90 euro scontate, però costavano molto di più, due batterie grosse, cioè. E da quanto sono le batterie? Da 12 volt? Sì, sono a 12 volt, però mi sembra che sono messe in coso, come si chiama, in serie, per cui non so se sia a 24 volt il funzionamento. È in parallelo solo, dai, ho capito. Va bene, vabbè. E quindi questa qui si carica con la corrente a 220, normale? Sì, come un telefonino, l'attacchi, c'ha un grosso alimentatore, c'ha nel cassettino, perché c'è anche il bauletto dietro. No, è bellina, perché è strana, perché sinceramente non ne ho mai visto, che rimangono in piedi, questa non ha bisogno né di cavalletto né niente. C'ha due ruote piccole dietro e una davanti, col volante, col manubrio e c'è il sellino, tu ti siedi, è tipo, come dimensione, tipo monopattino, però c'ha il posto a sedere e dietro ci sono due ruote, c'ha i clacson, le frecce, le luci, tutto quanto può circolare in strada, dai, come un motorino. Tipo quello degli invalidi, dai. Vabbè, non ne pare invalidi, chissà, però è tipo, cosa ti posso dire, un incrocio tra una bicicletta e un monopattino, perché i piedi li metti sopra, anziché in terra li appoggi nel piattello, nel ripiano di sotto, una pedana. Prego, avanti. Dai, Robè, mi dai un controllo di radio, vedi un po' come sta andando questa radio. Un bel forte, aspetta, non ho visto il livello, aspetta, non so. Dai, era giusto per, dai. Una. Prova a parlare, Massimiliano. Oh, guarda un po', Robè, dai, ho agganciato il leccaretto, vedi un po' come sta andando, guarda un po' se il livello può essere buono. Pure troppo, dovresti abbassare un peluzzino, se non alzi la voce sei al limite rosso quasi fisso, secondo me dovresti abbassare un pochettino, se parli un più, faccia il microfono a tavolo o a palma? No, è palmare, dai, forse ci avevo il micchiglione troppo alto, guarda un po'. Così va benissimo, se lo tieni così e non alzi la voce è perfetto. Oh, Massimiliano. Dimmi, Ricca. Ti ho accettato l'amicizio. Adesso vado a frugarti tutta la bacchecca. Ascolta, Robè, questa è sempre la stessa radio, ho spento tutto però, Come dire, sento tutto? Vabbè, non ti sei manco avvisato che c'era lecca acceso. Ah no, sto guardando solo il coso, il livello di microfoni, con l'intensità microfoni. Ah no, fai le prove, non le ho visti i segnali. Vabbè, il segnale è sempre uguale, perché i watt sono sia in una maniera che nell'altra, sono sempre uguali. Allora, il segnale è 9.15 spaccato. Ok, dai, no, adesso c'è il Mickey Ginn che è alle ore 3 e ho spento questo, mi guarda. Come mi sono abbassato il segnale? Se infatti non li sto toccando. No, scusa, no, forse come è sceso abbiamo la tua portata, no, mi sembrava un'illusione ottica. No, è tutto uguale. 9 più 15. Ok, chi è che vuole entrare? Avanti, chi è che sta mettendo questa portante? Avanti. No, non c'è la portata, aiutito. Ah, vero. Davvero? Non so chi c'è, non ho fatto ascolto. Sentito, Riccardo, Roberto, Luca, poi... Luca, adesso c'è Doppio Room e c'è Claudio e Eugenio. Eugenio non so se l'hai nominato. Facciamo riprendere a Claudio che è un po' in parcheggio. Avanti Claudio. In che trasmissione, prego. No, non si può entrare in questo canale con questa prepotenza. Io ho detto prove tecniche di microfono, prego. Ciao Tino, avanti. E poi rilasciamo a Claudio da Muro, che è un po' in parcheggio. Ciao Tino, avanti a te. Ha cambiato la radio per caso? Saturo. Massimiliano, ti ricordi quella radio là, Lincoln? Sì, è Saturo però. Allora ce la di sé, dai. Ce la di sé. Perlomeno io l'ascolto così, Ottino. Poi gli altri non lo so, sono più lontani. Infatti da un controllo dai più lontani, io la ascolto un po' Satura. No! Aspetta, guarda un pochino, si è migliorato. Compresso un pochettino, Ottino. Bene. No, va bene, dai, spengo tutto, tolgo tutto. No, aspetta, fai delle prove, guarda Roberto che è più lontano, vai Roberto. No, ho già risposto, è compresa, soprattutto questo secondo passaggio più di prima. Secondo passaggio faceva veramente schifo, ma il primo io lo sentivo veramente bene. No, ma non è...